Sì, abbiamo incontrato due giornalisti che sono stati interessanti per diversi motivi. Naturalmente ci hanno parlato molto della repressione nei confronti dei giornali, ne sono stati chiusi negli ultimi tempi un centinaio, compreso il giornale su cui scrivono entrambi. Una di loro scrive su un giornale femminista. Ci hanno detto che sono molto determinati nel rafforzare, in particolare dopo lo scacco, diciamo, del riformismo politico, sono molto determinati nel rafforzare il lavoro di organizzazione all'interno della società civile, che è già un lavoro molto diffuso, e soprattutto anche fare un lavoro che è molto difficile, ma che pensano loro che sia molto importante, di coordinamento tra queste varie isole, come loro l'hanno definite, che sono le varie associazioni di giovani, di donne, di giornalisti, di studenti, eccetera. Ecco, queste mi sembrano le cose un po' più significative che ci hanno detto. Direi che un'altra cosa importante è il fatto che queste varie associazioni di società civile hanno un interesse e una disponibilità a incontrare anche persone di altri paesi, per quanto siano però estremamente concentrati e diano la priorità al lavoro all'interno del proprio paese. Però si sono resi molto disponibili, anche interessati, curiosi, anche con la voglia, il reciproco impegno a continuare questo tipo di collegamenti e di scambi. Del resto sono anche persone che hanno già collegamenti, diversi di loro sono già nei prossimi giorni in partenza per diversi paesi europei, proprio perché hanno già una rete costruita, anche se ancora molto piccola, però una rete di relazioni. Quindi questo mi sembra la seconda questione molto importante, avviare un lavoro di collegamento e di reciproca informazione, ecco, per una società che è estremamente vitale, ma nello stesso tempo è anche abbastanza isolata.